Francis Delacroix, Francis Delacroix, è un bambino di legno, è un papero col frac. Francis Delacroix vestito come Jack Delwood, dice che viene dalla giungla, quella sul passo della Cisa. Dice che a Napoli ha fumato con il Buddha nel camerino di Bob Dylan. Francis Delacroix, Francis Delacroix, non porta più le mutande, è un papero col frac al Taj Mahal. Ha sempre un po' di febbre dentro le tasche. Lui lavorava nella pampa, in una pompa di benzina. Ha preso in bocca il manganello di un caramba, è il fascino della divisa. Francis Delacroix, Francis Delacroix, è un soldatino di piombo. Ha detto ai bravi di Rodrigo che si sposerà, gli ha dato il numero di Donna Abbondio. L'hanno beccato nelle Langhe che si stirava la camicia, probabilmente adesso in volo per Los Angeles, nascosto dentro una valigia. Francis Delacroix, Francis Delacroix, lo trovi in via dei Matti ad insegnare ad una mosca come si fa a dar del filo da torcere ai ragni. Quando era all'isola di Pasqua, disteso lungo la battigia, si è guadagnato il soprannome di Mahatma e le attenzioni di Lolita. Francis Delacroix, Francis Delacroix, per colpa degli dèi fu fatto prigioniero al posto di Mattia Pascal nella battaglia di El Alamein. Al carnevale di Venezia, quando spararono a Wojtyla, ricostruì l'identikit di Pulcinella ad una guardia pontificia. Francis Delacroix, Francis Delacroix, tra gli animali dell'arca era un cavallo dell'esercito di Gengis Khan che fu venduto a Don Chisciotte della Mancia. Fece una gara con gli Sherpa in un locale di Cortina, sotto uno specchio disse ci vediamo in vetta, fu il solo ad arrivare in cima. Francis Delacroix, Francis Delacroix, e le tre caravelle col cannocchiale vide l'isola di Trinidad, ma Colombo non gli disse niente. Nel giugno del 44 era sulla Santa Maria quando sbarcarono in un quadro di Picasso e scoprirono la Normandia. Francis Delacroix, Francis Delacroix, è la primula rossa ad un convegno multietnico del Ku Klux Klan, prese parole e si scavò la fossa. Sui grattacieli di Manhattan c'erano sua fotografia, quando era piccolo giocava con Siddhartha sotto le vele di Scampia. Francis Delacroix, Francis Delacroix, non mi ha mai detto una bugia.